Non siamo, non è solo FGB, anzi credo l'iniziativa è partita insieme ai COBAS della scuola di Bologna, così come in tante altre parti d'Italia. Oggi andremo a protestare perché il caso dell'insegnante di Palermo è emblematico di quanto è il picco, insomma, di questo attacco indiscriminato a tutti i lavoratori della scuola, ai lavoratori in generale, a tutti i lavoratori della scuola. Questo caso è arrivato agli onori della cronaca, probabilmente anche visto che siamo in fase preelettorale, però in realtà è solo appunto la cima dell'iceberg. Noi tutti i giorni in tutte le scuole ci troviamo a fronteggiare questo aumento della repressione a suon di procedimenti e funzioni disciplinari, da un lato motivate dal fatto che i continui tagli e la richiesta quindi di maggior sfruttamento per poter passare hanno bisogno di un aumento delle minacce, della repressione, dall'altro perché il nuovo ruolo dei dirigenti scolastici porta a convinti di poter fare quello che vogliono, mentre invece la scuola è organizzata con dei suoi organismi democratici. Se qualcuno fa valere i suoi diritti, esercita i suoi diritti democratici, viene spesso intimidito con le minacce e sanzioni disciplinari. Noi, come oltre a questo, chiederemo al Ministero un'ispezione verso il dirigente del Istituto Scolastico di Palermo, perché per noi la situazione è completamente ribaltata, cioè va messa quell'amministrazione sotto accusa e non l'operato della docente. Ecco, quindi viene messo, come dire, è stato messo in questo caso in dubbio la libertà di insegnamento, che è prevista anche dalla nostra Costituzione. In realtà appunto i limiti nei quali si esercita il reparto di insegnamento sono i principi costituzionali, a parte quindi i principi costituzionali che in questo caso non sono stati minimamente travaricati, non c'è nessun elemento che possa giustificare una sanzione. Se pensiamo, 2 settimane di sospensione sono qualcosa che veramente di solito avviene quando in contemporanea c'è qualche condanna penale, per capirci, no? La statistica questo ci dice, che un insegnante fa qualcosa di penalmente rilevante e grave può avere addirittura una pena del genere. Questo appunto, quindi rendere conto di quanto sia strumentale questo procedimento e la sanzione. È chiaro che appunto la libertà di insegnamento viene condizionata perché un qualsiasi potere ha bisogno che la scuola venga asservita alle sue necessità. Però noi qua vogliamo vederci anche un monito verso, non solo nei confronti del controllo della libertà di insegnamento, ma anche verso chi prova a esercitare i propri diritti proprio come lavoratore, perché in questo caso al centro della vicenda c'era questo lavoro svolto dai ragazzi, ma in generale di solito questi sono pretesti per colpire poi persone che smette che sono rispetto dei diritti del lavoratore. Quindi sostanzialmente voi chiedete che l'insegnante sia reintegrata e subito, ovviamente, e che ci sia un'ispezione? Sì, venga reintegrata e venga anche risarcita perché ha avuto un danno economico, nonché morale. E siccome appare evidente per chi di noi segue in genere questi procedimenti disciplinari come ci sia veramente qualcosa di veramente veramente anomalo, pertanto a nostro avviso va proprio ribaltato il punto di vista e il Ministero deve avviare un'ispezione ed eventualmente, laddove verifichi un comportamento antidoveroso e legittimo da parte del dirigente dell'ufficio scolastico di Palermo, prenda i dovuti provvedimenti disciplinari a carico di quel dirigente.